Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Per i libretti di risparmio, quelli postali e quelli bancari, è boom di richieste. Ecco un altro aspetto della crisi che sta portando sempre più le famiglie italiane alla ricerca di protezione dei propri risparmi. In realtà il boom riguarda quasi esclusivamente proprio quelli di natura postale. Perché si scelgono proprio i libretti di risparmio? Perché sono prodotti che hanno dei rendimenti che a malapena tengono il passo con l'inflazione, mediamente del 2,5%, ma la caratteristica che piace di più ai sottoscrittori è proprio la garanzia, cosa che al momento sembra non avere prezzo. Ci sono libretti postali, dicevamo, ma anche quelli bancari. Attenzione però alle soglie di deposito e alla normativa sui depositi dormienti, tutti aspetti che stamattina tratteremo con i nostri interlocutori. Caterina Gianardi, responsabile retail di Banco Posta, e Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum. Per le vostre domande il numero verde, ormai lo sapete bene, è l'800240024, ma i vostri quesiti ce li potete porre anche all'SMS al 349-238-6666. Diamo un'occhiata subito alla borsa, che oggi vive di nuovo una giornata piuttosto positiva. In Europa anche oggi con prestazioni piuttosto differenziate. Da qualche giorno Francoforte, come sapete, viaggia in maniera assolutamente indipendente rispetto alle altre piazze europee per responsabilità del titolo Volkswagen, che ha condizionato molto la performance dell'istino tedesco. Anche oggi comunque per Francoforte, grazie ai risultati di Deutsche Bank, guadagna il 4,61%, i titoli della banca tedesca sono in rialzo di circa 15 punti percentuali. Abbiamo poi Parigi in rialzo dell'1,58%, Londra più 1,81%, Milano più 2,36%. Per Milano, netto recupero di alcuni titoli che hanno sofferto molto nelle ultime settimane, a cominciare dai bancari. Infatti anche oggi Unicredito e Intesa San Paolo recuperano altri 6-7 punti percentuali. Unicredito ha recuperato 1,80 euro. È sospesa dalle contrattazioni in questo momento Alleanza, risaliva la china troppo rapidamente, è stata dunque congelata quando guadagnava mezzogiorno l'8%. Segue Impregilo più 7,86, Fiat più 7,70, abbiamo un balzo del 6% anche per Tenaris, del 5% per la Banca Popolare di Milano e per il Banco Popolare, più 4,5 punti per Mediaset. Discesa netta invece per Eni, che sta perdendo il 3%, Finmeccanica in ribasso di 1 punto, debole anche Enel che perde lo 0,25%. Ovviamente sotto i riflettori la decisione di ieri sera della Banca Centrale Americana di ridurre il costo del denaro negli Stati Uniti di 0,5 punto percentuale. I tassi sono di nuovo all'1% negli Stati Uniti d'America. Vedremo, e qua ovviamente monitoreremo ancora con più attenzione la prossima settimana la riunione della Banca Centrale Europea, che giovedì dovrebbe tagliare anche nell'Eurozona i tassi di interesse. Quelli abbiamo al 3,75%, al momento ci si aspetta addirittura un taglio drastico di 1 punto percentuale, almeno queste sono le richieste soprattutto dal tessuto imprenditoriale. Vedremo se Trichet accontenterà appunto l'economia con un taglio di questo di questa dimensione. Euro su dollaro stamattina a 1,3148, l'euro in netto recupero sul biglietto verde. In realtà la corsa degli ultimi tempi è tutta a favore dello yen, e quindi insomma anche sul mercato valutario abbiamo delle giornate piuttosto intense. Noi però adesso lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina. Come sapete bene, la tendenza recente da parte delle famiglie italiane è quella di proteggere al massimo i propri risparmi, e forse a questo aspetto è riconducibile il boom di sottoscrizioni di libretti di risparmio. Nonostante le rassicurazioni arrivate da più fronti e la garanzia dello Stato su conti correnti e obbligazioni bancarie, la temuta fuga dagli istituti di credito c'è stata. A beneficiare della crisi finanziaria e della crescente incertezza tra i risparmiatori sono state le Poste, da sempre cassaforte dei risparmi degli italiani attraverso i buoni fruttiferi e gli inossidabili libretti di risparmio. E così, nelle ultime 3 settimane, i dati della raccolta del Banco Posta sono schizzati alle stelle. Per questi prodotti c'è stato un vero boom di richieste, con incrementi a 3 cifre. L'aumento per i soli libretti di risparmio è stato di oltre il 120% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questa impennata si spiega con la grande voglia di sicurezza che ora si respira tra correntisti e risparmiatori. Questi prodotti, infatti, seppur con rendimenti contenuti, sono assolutamente garantiti, cosa che al momento non ha prezzo. Inoltre, pochi giorni fa, è stato annunciato per i libretti postali un aumento dei rendimenti a partire dall'1 novembre. Saliranno dello 0,20% i tassi di interesse annuo offerti dalle varie tipologie di questo strumento di risparmio. In questo modo, gli ordinari avranno un rendimento variabile tra il 2,2% e il 2,7% lordo, mentre quelli dedicati ai minori di 18 anni saliranno al 2,85%. Ma il vero vantaggio risiede nella maggiore sicurezza offerta dai libretti. Quelli postali sono garantiti dalla Cassa Depositi e Prestiti. Oltre alla possibilità di utilizzarli per alcune operazioni accessorie, come l'accredito della pensione o il versamento di assegni. Ma la febbre dei libretti di risparmio non è soltanto italiana. A Parigi ne sono stati aperti 260.000 tra il 1 settembre e la prima metà di ottobre, a fronte di una media di 35.000 sottoscrizioni in tempi normali. Il bisogno di sicurezza, insomma, val bene una coda alle poste. 800 24 0024, numero verde per gli interventi degli ascoltatori. Ne vedo già pronti ad intervenire numerosi, questo ci fa piacere. Vedo anche già numerosi messaggi al 349 238 6666. Qualcuno dirà: al mezzogiorno dovresti esserti svegliata completamente, invece non del tutto, perché ho chiamato la dottoressa Gianardi, Caterina invece di Carolina. Dottoressa Gianardi, responsabile retail di Banco Posta, benvenuta. Buongiorno. Salva Danaio. Saluto anche un altro ospite che invece è frequente, un ospite frequente di Salva Danaio, questo ci fa solo che piacere, Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum, una grande associazione dei consumatori, ma lui ha proprio la specializzazione nell'ambito del denaro. Picciolini, benvenuto. Buongiorno. Del denaro, grazie. In termini di finanza, rapporti con le banche, insomma, un rapporto molto problematico negli ultimi tempi. Tra l'altro, prima di intavolare la nostra discussione sulle tematiche del funzionamento del libretto di risparmio, come funzionano, quanti ce ne sono e quante tipologie ce ne sono, volevo segnalare un'iniziativa che ha preso il consorzio dell'ABI per l'educazione finanziaria, Patti Chiari, che ha reso noto di aver sospeso l'elenco della pubblicazione delle obbligazioni a basso rischio e a basso rendimento. Questo naturalmente succede dopo quello che è accaduto con Lehman Brothers, perché come sapete su Patti Chiari Lehman Brothers fino alla giornata della bancarotta della banca stessa erano obbligazioni segnalate come obbligazioni a massimo livello di rating, per cui probabilmente anche questo ha condotto Patti Chiari a rivedere un po' anche i criteri di selezione e di pubblicazione delle obbligazioni. Tra l'altro, presto il sito, ci hanno fatto sapere, partirà con un restyling appunto delle sue anche caratteristiche, non solo grafiche ma soprattutto di contenuto. Noi ne parleremo, spero, presto. Vi suggerisco, anche se ne volete sapere qualcosa di più, anche l'articolo pubblicato questa mattina sul sito del Sole 24 Ore del collega Nicola Borzi, Patti Chiari, stop ai bond. Andiamo al nostro tema di oggi. Dottoressa Gianardi, ancora benvenuta. Il libretto di risparmio, noi, vabbè, per quello che riguarda la sua competenza, parliamo di quello postale, è un classico e forse uno dei più vecchi prodotti di risparmio delle Poste. Allora, è vero? Che cosa ci può raccontare, che si sta registrando questo boom di sottoscrizioni? Ma sicuramente nel corso di questo mese, a valle delle difficoltà che si stanno riscontrando sui mercati finanziari, c'è stato un interesse ulteriore a quello che è costantemente presente su questa forma di prodotto di risparmio. Di fatto a Poste Italiane è sempre stata riconosciuta una valenza di sicurezza, convenienza e trasparenza che in situazioni come quelle attuali ha probabilmente un prezzo e un valore ancora maggiore. È vero, nel corso soprattutto della parte centrale del mese di ottobre abbiamo registrato un significativo aumento dei versamenti sui libretti postali, il trend si sta confermando, adesso aspettiamo la chiusura del mese per avere, diciamo, una quantificazione più precisa, che ovviamente risente di andamenti differenti di giorno in giorno. Oltre alle sottoscrizioni dei libretti di risparmio, c'è stato un boom anche di sottoscrizioni di buoni postali, buoni fruttiferi. La raccolta risultava cresciuta secondo delle indicazioni fornite recentemente, poi come lei diceva ovviamente sono cifre che verranno aggiornate con maggior precisione, la raccolta risultava cresciuta a settembre secondo quello che ha detto il vostro amministratore delegato qualche tempo fa, Massimo Sarmi, rispetto allo stesso mese dell'anno prima del 286%. Spendo subito una domanda di un ascoltatore, dottoressa Gianardi, che al 349 238 6666 dice: ma che senso ha fare un libretto di risparmio? Io le metto anche insieme il buon buono fruttifero della posta quando già ci sono, per esempio, i titoli di Stato, la garanzia non è la stessa. Quali sono le differenze fra questi prodotti? Ma allora, sicuramente per quel che riguarda i prodotti che Poste Italiane con Banco Posta distribuisce, prodotti di cassa, depositi e prestiti, l'elemento distintivo è la garanzia del capitale, degli interessi maturati in qualsiasi momento. Quello che diciamo posso indicare è che sul libretto di risparmio postale non ci sono limiti di importo né limiti di durata minima di permanenza del versamento per poter maturare gli interessi in vigore al momento in cui il versamento viene effettuato. Cosa molto simile si verifica anche sui buoni fruttiferi postali, anche se questi sono prodotti che hanno una logica di investimento più a medio e lungo termine per poter massimizzarne il ritorno. Per quel che riguarda i buoni ordinari, una volta diciamo avuto il possesso del prodotto per i 12 mesi si può smobilizzare in qualunque momento con anche il riconoscimento degli interessi maturati. Stessa cosa per i buoni a 18 mesi, dove il periodo minimo richiesto di versamento di possesso del prodotto è di 6 mesi. Adesso coinvolgo Fabio Picciolini, ma lo faccio grazie alla domanda di un ascoltatore. Apriamo subito dunque il nostro microfono ai nostri amici che ci seguono da casa e che ci chiamano all'800 24 00 24. Angelo da Roma, benvenuto. Buongiorno. Ci dica tutto. Diciamo che da 3 mesi ho chiuso tutti i contatti con le banche e mi sono trasferito in posta. Mi dice perché l'ha fatto, Angelo, adesso poi prima, perché si è spaventato della situazione? Perché ha fatto questa scelta così drastica? Allora, prima di tutto in banca c'è una sorta di, non vorrei dire una sorta di diciamo di clientelarismo, ma io in posta vengo trattato come quello che ha 1 miliardo e come quello che ha 1.000 euro. E questa per me è la prima cosa basilare rispetto del cliente, quello che in Italia è cominciato a mancare da un decennio a questa parte. In più la maggior sicurezza dei depositi è ancora non da sottolineare il costo. Io in posta ho le spese che non aumentano ogni giorno, ho un patto chiaro firmato con le Poste, in più mi è stato consigliato adesso, perché ho un piccolo portafoglio. Visto quello che sta succedendo, sono stato molto consigliato, molto bene, ho avuto tutte le risposte alle mie domande. Quindi Angelo, no, per sintetizzare, non è una scelta che lei ha fatto perché adesso c'è crisi, le banche hanno dei problemi e quindi questo ha provocato la sua fuga dallo sportello bancario. Lei dice: proprio il mio rapporto con la banca che era problematico, ho voluto cercare qualcos'altro. No, ma anche quello. Anche quello, si è spaventato anche per quello. In più mi hanno consigliato, infatti vorrei chiedere la... ai nostri interlocutori, sì. Esatto, la sua responsabile, perché ho un bambino di 6 anni e ho un portafoglio da mettere da parte dei piccoli soldini per lui. Mi hanno chiesto un buono fruttifero, un LN28, credo che lei sappia, la dottoressa, che cos'è, che ha un ventennio credo come durata e ha un tasso medio intorno al 4%, che a oggi, visto come stanno le cose, non è una cosa molto malvagia. Grazie Angelo. Allora, ovviamente la dottoressa Gianardi, per quanto è sicuramente preparata, magari non conosce al volo questo prodotto, le lasciamo il tempo magari di individuare le caratteristiche del prodotto citato dal nostro ascoltatore, però io tutto quello che ho sentito vorrei subito commentarlo con Fabio Picciolini. È una storia già vista, nei momenti di crisi si smontano i prodotti di risparmio collocati presso le banche o dalle banche, si smontano anche i conti correnti per riscoprire il risparmio postale. Questo era successo anche all'indomani dei crack Cirio, Parmalat. Picciolini, come la vede lei questa tendenza? No, io la vedo in maniera molto preoccupata, perché sono due discorsi completamente diversi. Un discorso è quello relativo ai prodotti di risparmio, e un discorso è quello relativo al conto corrente, libretto di risparmio, pronti conto termine, tutte queste cose qui. Allora, sul risparmio comprendo che ci sia paura, perché comunque le policy index vanno male, le obbligazioni non vengono rimborsate, la gente ha già passato Parmalat, Cirio, derivati e tutto quanto, quindi lo capisco. È una scelta, secondo me sarebbe opportuno farla sempre con qualcuno, con un consulente, con un'associazione che possa fornire consigli, diciamo così, anche rispetto agli obiettivi che uno si è dato quando ha fatto l'investimento, per esempio in un fondo comune di investimento, e che ovviamente se uno disinveste prima non raggiungerà gli obiettivi desiderati. E questo è un discorso. Il secondo discorso è quello invece, quello che mi interessa di più in questo momento qui. Il signore è un po' una spia di quello che sta avvenendo. Infatti, la cartina di tornasole, esatto, chiamiamola così. Per fortuna un po' di meno rispetto a 10-15 giorni fa. Cioè, conto corrente postale o conto corrente bancario, del libretto postale o libretto bancario, sono tutelati identicamente alla stessa maniera. Cioè non toglierli da un po', toglierli da uno all'altro, a me non interessa se è banca verso posta o posta verso banca, assolutamente. Qui non bisogna farsi prendere dal panico. Cioè noi abbiamo i conti correnti sono garantiti da un fondo, ovvero la Cassa Depositi e Prestiti, quindi dallo Stato, fino a 103.000 euro, le banche cooperative hanno lo stesso importo. Oggi, dopo le iniziative del governo a causa della crisi Lehman, c'è la successiva garanzia dello stesso Stato. Quindi è un problema che io ho paura, sono preoccupato per il fatto che ci siano questi movimenti continui, per cui la gente poi alla fine rimane anche disorientata. Diverso è il caso in cui uno faccia un ragionamento molto più semplice, questo invece ritengo che sia giusto, sia un fatto di concorrenza. Le poste hanno aumentato il rendimento dei propri libretti, quindi io passo alle poste, e questo è un discorso giustissimo. Viceversa, se così facessero le banche, uno torna indietro. Quindi, però la cosa che veramente mi preme molto dire, non farsi prendere dal panico, questa è la preoccupazione sul conto corrente. Poi certo, naturalmente, come ha fatto l'ascoltatore, se in un momento di difficoltà bancaria generale che in qualche maniera ci genera della preoccupazione, ci aggiungiamo il fatto che non siamo per niente soddisfatti del rapporto che abbiamo con la nostra banca di fiducia, è chiaro che poi la trasposizione, cioè il trasferimento presso un'altra istituzione finanziaria è naturale, no, Picciolini? Questo lo stavo dimenticando, infatti la prima parte sarà molto interessante dell'ascoltatore, cioè ecco, ha detto una frase secondo me bellissima, ha detto io vengo trattato sia se ho 1.000 euro. Ecco, questo è un attimino l'aspetto importante che noi chiediamo all'industria bancaria, cioè non esistono solamente i grandi investitori, esistono le persone che prendono 516 euro al mese di pensione e probabilmente riescono anche a mettere da parte i 50 euro al mese perché magari hanno casi di proprietà o altre cose. Allora, di quella persona addirittura deve essere trattata meglio, perché è la persona che fa sacrifici per mettere da parte due lire, due insomma, euro, siccome diciamo la gran massa è quindi fatta cortesia, di famiglie, educazione, spiegazione di prodotti è fondamentale. Quindi era bellissima quella frase di quell'ascoltatore. Infatti. E quante battaglie avete fatto come associazione dei consumatori anche su questo, ma anche le stesse banche hanno riconosciuto negli ultimi anni un grosso problema di reputazione che naturalmente era enfatizzato anche da questi aspetti citati dall'ascoltatore. Allora, il nostro ascoltatore di prima ha citato però un prodotto di risparmio per il proprio bambino. Dottoressa Giannardi, io le metto insieme anche un'altra domanda di Timo da Pordenone, alla quale pure rispondiamo, ma a questo punto trasliamo tutto nella seconda parte di Salvadanaio in modo che possiamo dare la risposta più esaustiva possibile. Timo da Pordenone, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Io appartengo a quella categoria che ha detto il professore. Sì. Io ho fatto una libretto per un bambino su credit cooperativo. Sì. Però non ho aggiornato da parecchio tempo, per me. Non è che entra su quella categoria con dei permendi? Ah, ecco, questo è un altro aspetto. Allora, Timo, la ringrazio, poi faremo anche un punto della situazione su quei prodotti che rischiano di finire nel calderone dei depositi dormienti, anche se abbiamo visto che poi è stata fatta la stima anche di quale cifra, insomma, potrebbe essere depositata in questi prodotti che non vengono movimentati da molti anni, ma questa è un'altra questione. Gli italiani confermano la tradizionale prudenza nella gestione del denaro con un'alta propensione al risparmio, l'87%, lo evidenzia la ricerca realizzata dall'ACRI, l'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane, con l'Ipsos in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio. I contenuti della ricerca vengono anticipati in queste ore in una conferenza stampa a Roma. Noi domani, tra l'altro, dedicheremo tutta la puntata di Salvadanaio alla Giornata Mondiale del Risparmio, ma quello che emerge da questa analisi è evidentemente proprio quello di cui stiamo parlando questa mattina, la ricerca della protezione che ha portato, alla luce della crisi finanziaria internazionale, molte famiglie italiane a dirottare il proprio denaro, il proprio risparmio anche su strumenti semplici e che danno la massima garanzia di conservazione anche a fronte di un piccolo rendimento. I libretti di risparmio postali in questo momento stanno vivendo un momento d'oro e noi avevamo ascoltato due considerazioni di due ascoltatori preoccupati anche perché stanno dirottando parte delle proprie risorse di risparmio in libretti postali che saranno destinati poi ai propri bambini. Carolina Giannardi, responsabile retail di BancoPosta, ci risponde adesso alle considerazioni fatte dai nostri ascoltatori prima. prima della pausa, un ascoltatore di Roma diceva, aveva sottoscritto proprio un prodotto, non so se si chiami realmente M28, dottoressa Gianardi, ha avuto modo di appurarlo nella nostra pausa? Sì, no, di fatto il radioascoltatore molto preciso si riferisce al codice della serie, l'M28, che di fatto è un buono fruttifero postale dedicato a minori emesso. Quindi diciamo, non è un libretto di risparmio intanto? Parliamo di buoni fruttiferi, esatto, postali, sì. Quindi non è il libretto di risparmio per minori, ma il buono fruttifero postale dedicato ai minori. E la serie, diciamo, distingue il mese in cui il buono è stato emesso e determina poi anche quello che è il rendimento associato a quel buono fruttifero postale. I buoni fruttiferi postali dedicati ai minori di fatto sono intestabili esclusivamente ai minori di età da 0 a 16 anni e 6 mesi, se non ricordo male il radioascoltatore parlava di un bambino di 6 anni, e hanno una durata massima variabile in funzione dell'età del minore alla data di sottoscrizione. Alla scadenza naturale, che coincide col giorno del 18° compleanno, il buono rimborsa un ammontare pari chiaramente al valore nominale investito, moltiplicato per un coefficiente che rappresenta il tasso di rendimento. In particolare il radioascoltatore parlava di un rendimento superiore al 4%, questo perché di fatto da oggi che il bambino ha 6 anni a quando arriverà a 12 anni, questa serie di buoni fruttiferi hanno un rendimento intorno al 4,40, quindi diciamo il radioascoltatore è stato molto molto preciso. Invece l'ascoltatore successivo, Tito da Timo da Pordenone, io ricordo intanto che potete continuare a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24, diceva: io ho aperto un libretto di risparmio dove ho collocato un po' di denaro per mio figlio, forse era questo il caso dell'ascoltatore, che è un bambino di 6 anni, quello di Roma, ma in ogni caso non cambia la sostanza della domanda. Il tema è: se io deposito una cifra in questo libretto e vorrei che mio figlio magari le utilizzasse una volta diventato maggiorenne, in tutti questi anni, se io per esempio per 15 anni non movimento questa somma, finisce questo prodotto nel calderone dei depositi dormienti? Fabio Picciolini, visto che già Salvadanaio una volta l'ho messa in croce sul tema dei conti dormienti, lei sa tutto, ci ricorda un po' come funziona questa normativa, cosa prevede? Questa normativa innanzitutto è proprio, questo è uno degli aspetti su cui abbiamo cercato in tutti i modi di avere certezze, e certezze non ci sono. Secondo noi, essendo un conto aperto, essendo appunto vincolato al 18° anno di età o comunque a un'età prefissata, non finisce nei conti dormienti. Però leggendo tutte le norme finora emanate, non c'è certezza di quello che sto dicendo, e quindi è giusto che io lo dica. Però se mi permetti, io vorrei fare una considerazione, visto appunto già in passato abbiamo parlato di conti dormienti, no, io vorrei fare 3 considerazioni sui conti dormienti, le faccio veramente. Come posso dirle di no? Grazie, troppo gentile dottoressa Rosciani. Allora, prima di tutto, qui una piccola medaglia alla mia associazione. Non abbiamo mai creduto ai 15, ai 20, ai 50 miliardi di conti dormienti. Le prime stime parlano di 2 miliardi. Sì. Saranno 3, saranno 2,5, ma purtroppo anzi per fortuna, perché la gente si è presa i suoi soldi, non sono tantissimi questi fondi, quindi non si vede come si possa pensare solo con questi fondi a risarcire coloro che hanno perso le vittime soldi con Parma, Latte, sì. Cirio, ma non solo, all'Italia, Social Card e via dicendo. Secondo aspetto altrettanto importante su cui secondo me bisognerebbe riflettere un attimino è che il Consiglio di Stato ha rigettato il regolamento sui conti dormienti predisposto dal Ministero dell'Economia. Sì. Quasi interamente, quasi sulle parti più importanti. Quindi ha rigettato che cosa? Ha contestato che cosa? Le modalità con cui questo fondo attinge? Da dove attinge? Come si attinge, l'importo minimo e che non si può rimborsare sotto i 1000 euro, ne ha fatti 4 o 5, sono di considerazioni estremamente importanti. Sì, ma infatti terza cosa mi preoccupa sinceramente ancora di più, considerato che comunque sono pochi ma possono essere utili per alcuni soggetti, per alcuni piccoli investitori. C'è la possibilità, almeno così ho letto anche sul suo giornale, che questi fondi non vadano più in un fondo specifico, ma vengono acquisiti direttamente dal Ministero dell'Economia, che poi ci farà quello che riterrà ovviamente più opportuno. La cosa ancora più preoccupante è che noi abbiamo una situazione che è grave, ripeto, Parma, Latte, Cirio, quello che ci è stato aggiunto Social Card all'Italia, ma abbiamo oggi altri crack purtroppo, l'ultimo esatto, è Lehman, ma Lehman, speriamo esatto. Che sia veramente qua l'ultimo. Abbiamo... Se prendiamo l'ultimo, ma non ci credo, no. E a questo punto io dico, quantomeno lasciamo che questi fondi, magari creandone pure qualche altra cosa vicino, restino a disposizione di chi ha subito questi. Però volevo anche precisare che in ogni caso non è necessario mettere dentro altre cifre o fare un prelievo per movimentare, basta farsi vivi con l'istituzione di riferimento finanziario, per cui anche per Timo da Pordenone, che teme che il risparmio per il proprio bambino e l'accantonamento del proprio bambino possa essere sottratto, chiamiamolo così, al Ministero dell'Economia, Timo stia tranquillo, anzi magari chiedo alla dottoressa Gianardi di Banco Posta se vuole rafforzare questo messaggio per il nostro ascoltatore. Ma ecco, l'ascoltatore in particolare parlava di libretti di una banca di credito cooperativo, quindi ha ragione, poi mi scusi che leggerò. Quindi sicuramente se ha questo dubbio il suggerimento è di rivolgersi alla propria banca, e in modo tale che, come dire, si rasserena. Quello che posso aggiungere riguardo invece i libretti speciali dedicati ai minori di Poste Italiane, essendo libretti che sono disponibili da febbraio 2003, di fatto non rientrano nella casistica dei 10 anni, e quindi anche questo eventuale dubbio di fatto non sarebbe esistente. Questa serie, dottoressa Gianardi, di prodotti, di libretti di risparmio in particolar modo dedicati ai giovani, io mi ricordo che avete fatto una campagna di marketing molto intensa, i prodotti più noti si chiamano Io Cresco, Io Conosco, Io Capisco, proprio per natura, essendo dedicati ai giovani, ai ragazzi e ai bambini, sono generalmente prodotti proprio che vengono sottoscritti magari da nonni e zii per ovviamente salvaguardare un po' di capitale per il futuro appunto di questi ragazzi, magari per farli studiare, quindi per natura ovviamente sono generalmente investimenti o comunque accantonamenti che hanno una durata lunghissima, no? Quindi forse questo anche a maggior ragione dovrebbe rassicurare chi ci ascolta sul fatto che ovviamente il Ministero dell'Economia non può mettere le proprie mani su questo denaro. Certo, perché di fatto sono investimenti che vanno fino al compimento del 18° anno di età del figlio, e quindi chiaramente parliamo di un arco temporale molto, molto lungo. Possiamo fare adesso un'altra differenziazione, grazie alla domanda di Piero da Verona, su magari uno stesso prodotto emesso da una banca o emesso dalla Posta. Piero, benvenuto. Piero. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Pronto, mi sente? La sento benissimo adesso. Ecco, la mia banca mi ha proposto un libretto certificato di deposito vincolato per 6 mesi, sì, al 4,50 eccetera. Volevo sapere se è sicuro in caso di fallimento della banca e su che cifra, se è sempre sui 103.000 euro. Allora andiamo da Fabio Picciolini, segretario nazionale di Adiconsum. Libretto / certificato di deposito o solo un certificato di deposito? No, certificato di deposito, no, certificato di deposito. La parola libretto non c'entra. Sicuro, è sicuro, rientra tra quelli degli 103.000 euro, ma c'è un piccolo problema, che poi è un discorso di rendimento. Essendo a 6 mesi ha una fiscalità del 27% e non del 12,50%. Cioè il vincolo aumenta la tassazione? Non il vincolo, il fatto che è a breve termine. Ah. Il fatto che a breve termine, quindi la tassazione del 50% in questo caso non può essere applicata. Però se la domanda di Piero è riconducibile al grado di sicurezza di questo prodotto di investimento, è un prodotto assolutamente tutelato. E comunque Piero, guardi, mi pare di capire che a questo punto nessuno lascerà nessun governo in Europa e nemmeno nel nostro paese lascerà fallire nessuna banca, per cui stia sicuro, io spero davvero di non dover fare a lungo più trasmissioni sul fondo interbancario di tutela dei depositi, che è diventato davvero l'incubo di tutti gli italiani in questo periodo. Andrea da Ravenna, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Io con mio stupore mi sono accorto ultimamente, andando a informarmi per quanto riguarda dei buoni postali, premetto che sono titolare di buoni postali che i più vecchi risalgono al 1983, mi sono accorto che un opuscolo che si può scaricare dalle Poste mi dice che a seguito dell'emanazione di diversi decreti ministeriali i tassi della serie N a decorrere dal 31/8/84, questo è un esempio perché ce ne sono degli altri, sono stati convertiti ai tassi previsti dal quarto anno in poi della serie O. Io ho fatto due calcoli e questo è, sono decreti che sono praticamente stati emessi con effetto retroattivo per le Poste. Sì. Io ho fatto un calcolo su un buono postale dell'83 di 500.000 lire, sì. Il valore attuale che doveva essere di 6.600 euro, perché il tasso di rendimento attuale dovrebbe già da 8 anni è del 16%, come contrattualmente stipulato con le Poste all'epoca, invece di valere 6.600 euro, vale 2.700 euro con l'emanazione di questo decreto. Ora, io una domanda è proprio d'obbligo. Questa tutela nei confronti degli enti e nei confronti delle banche sarebbe stata uguale se nel caso in cui io avessi stipulato dei contratti o comunque comprato dei buoni postali con un interesse molto basso e l'inflazione fosse cresciuta enormemente? Dottoressa Carolina Gennardi, è svenuta la domanda di Andrea da Ravenna? No, assolutamente. Ce la possiamo fare a sopravvivere? No, assolutamente, anche se comprendo le osservazioni del radioascoltatore. No, ma magari se ci riesce ad aiutare, se ci può aiutare a tradurre un po' il problema con il quale lui si è confrontato, certo, e anche la contestazione, certo, che muove. Certo. Lui dice, fa riferimento al fatto di possedere una serie di buoni fruttiferi postali, alcuni anche con riferimento agli anni 80, adesso non ricordo se 83 o 87, sì. Ecco, di fatto quello che si è verificato prima del 19 dicembre 2000 è che il Ministero del Tesoro ha, con una serie di decreti, ha modificato effettivamente retroattivamente, in alcuni casi in aumento, in alcuni casi in diminuzione, e il radioascoltatore impattato dalla diminuzione su buoni fruttiferi, diciamo, emessi negli anni precedenti. Dal 19 dicembre 2000, con un nuovo decreto, è stato stabilito che questo, diciamo, fenomeno non potrà più verificarsi, quindi non è più possibile che con dei decreti, almeno in base a quanto indicato nel decreto 19 dicembre 2000, vengano modificati retroattivamente i tassi di rendimento. Quindi, insomma, in soldoni, Andrea se la deve prendere con il Ministero dell'Economia? Invece che con voi. Di fatto, noi da questo punto di vista, distribuendo prodotti di Cassa Depositi e Prestiti, non abbiamo un ruolo né nella definizione dei prezzi né nelle eventuali modifiche, ecco. No, quello che mi chiedo è come mai Andrea abbia scoperto la sorte dei rendimenti dei suoi buoni postali cercando informazioni sul sito delle Poste. Come avviene in genere, anche se adesso lei appunto mi stava precisando che dal 2000 non avverrà più una dinamica di questo tipo, no, di variazione dei tassi in relazione appunto a decisioni del Ministero dell'Economia, ma in genere se ci sono delle variazioni contrattuali rispetto a dei prodotti sottoscritti, io immagino che per quello che riguarda le Poste ci si comporti come si fa in banca. Arrivano delle comunicazioni, dottoressa Gennardi? Lei si occupa del mondo retail di Banco Posta? Esatto, quello che succede in questo caso specifico, viene fatta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi può essere che il radioascoltatore abbia scoperto successivamente l'avvenuta modifica, anche perché da questo punto di vista c'è da tenere presente che i buoni fruttiferi postali sono tutti cartacei in gran parte, no? E quindi anche quella che può essere una gestione, mi passi il termine, di una comunicazione puntuale e continuativa legata poi a dei decreti del Ministero del Tesoro avvengono in gazzetta. Fabio Picciolini, lei non vuole aggiungere altro su questo caso? Sì, come no, invece, sì, vorrei aggiungere qualcosa, perché qui c'è un aspetto secondo me abbastanza importante. È vero, è esatto, perché è vero, è ovvio che sia vero, è esatto che dice la dottoressa di Banco Posta, però qui c'è un fatto importante. È vero che le leggi vanno rispettate, però se io firmo un contratto, nel momento in cui io compro un buono fruttifero postale, firmo un contratto e poi mi vedo per decreto modificare quell'importo, sicuramente ci resta quel rendimento che mi attendo, sicuramente ci resta un pochino male, quantomeno. Se poi perdo due terzi di quello che mi aspettavo, resta ancora peggio. Su questo argomento, peraltro, volevo ricordare che ci sono state tentativi di fare anche cause e interventi della magistratura, poi, proprio per quello che diceva la dottoressa Gianardi, la Cassazione ha sospeso qualsiasi giudizio, perché appunto è entrata in vigore questa nuova normativa, per cui tutto ciò non è possibile. Noi abbiamo tentato in più occasioni in passato di cercare di trovare una soluzione anche conciliativa e anche di mediazione rispetto a soluzioni. Appunto, vedo il signore, il radioascoltatore, ha perso due terzi di quello che si attendeva, non mi sembra assolutamente poco. Purtroppo su questo aspetto non abbiamo mai trovato un appiglio per poter cambiare lo stato dell'arte. Picciolini, già che ci siamo, facciamo la differenza fra i libretti che possono essere nominativi o al portatore? Allora, i libretti nominativi sono quelli in cui il libretto intestato a Fabio Picciolini può essere di importo teoricamente. teoricamente, purtroppo, anzi il mio sarà molto poco, teoricamente illimitato. Il libretto a portatore invece esistono delle regole certe e fisse che sono state modificate non più tardi del giugno scorso, tornando a una vecchia norma, per cui il libretto al portatore deve essere massimo di 12.500 euro, se per caso l'importo è superiore deve essere o ridotto o chiuso, ovviamente trasformato in libretto nominativo, ovvero riportato all'interno di 12.500 euro, ovvero terza possibilità, che però sinceramente io non sono molto contento di questa possibilità, anche se è possibile frazionare in più libretti al portatore gli importi che sono per rientrare appunto nei 12.500 euro. Carolina Gianardi di Banco Posto, ovviamente l'amministrazione postale, le poste hanno anche i conti correnti, però rimanendo al libretto di risparmio c'è una rosa di funzioni equiparabili anche a quelle che si possono attivare con il conto corrente, che possono essere attivabili anche con il libretto di risparmio, ce lo vuole ricordare? Sì, di fatto per quel che riguarda i libretti postali ci sono, come già veniva accennato in precedenza, la possibilità di accredito della pensione e c'è la possibilità anche di con il deposito titoli di poter regolamentare su deposito titoli, cosa che in genere sui libretti delle altre banche non è possibile. Per quel che riguarda l'altra caratteristica dei libretti è che in realtà c'è una possibilità di versamento e di prelievo all'ufficio postale senza alcun vincolo e quindi lascia comunque al cliente la possibilità di gestire i propri soldi in maniera flessibile, ovviamente per una operatività, per una vera e propria transazionalità continua a essere il conto corrente il prodotto principale. L'ultima domanda all'800240024 è quella di Matteo da Torino, a cui chiedo la massima sintesi. Matteo, benvenuto. Benvenuto, pronto? Sì, eccoci. Sì, senta, è venuta a mancare la nonna, abbiamo trovato un libretto postale che ha 50 anni. Sì. C'è un deposito di 100 lire, siamo andati alla posta e ci hanno detto che è scaduto. Sì, ma 50 anni fa i 100 lire sembrava una mucca, perché la posta non vuole darsi i soldi? Dottoressa Gianardi, le faccio scrivere da Matteo così valutiamo un po' meglio insomma cosa si può fare per riattivare questo libretto? Assolutamente, grazie. Facciamo così allora, Matteo. Anzi, Picciolini, che cosa dice di fare a Matteo? Fare questo tentativo, spero la dottoressa Gianardi dia una risposta positiva, ho paura che le poste facciano valere la prescrizione ordinaria in questo caso. Grazie. Allora adesso, prima dei saluti però formali, vi ricordo che naturalmente è ancora in edicola con il Sole 24 Ore l'instant book La Grande Crisi, domande e risposte. Noi continuiamo a proporvi le pillole contenenti le parole chiave per definire questa crisi. Ecco la parola di oggi. Derivati, contratti finanziari stipulati tra due contraenti, il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria, come ad esempio azioni, obbligazioni, tassi di interesse o di cambio, indici di borsa, o reale, come ad esempio le materie prime. E grazie alla dottoressa Gianardi di Banco Posta, Fabio Picciolini di Adi Consum per essere stati con noi. Noi naturalmente torneremo più avanti su questi argomenti, visto che continuano, soprattutto in questo periodo, ad appassionarvi. Speriamo di poter riaprire anche la possibilità per il nostro ascoltatore di risvegliare questo libretto di risparmio della nonna con una cifra anche non indifferente per l'epoca nella quale era stato sottoscritto. Grazie a tutti, Salva Danaio torna domani, ci occupiamo della giornata mondiale del risparmio. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.